in Italia ancora si muore, o per meglio dire si viene uccisi con il marchio di essere diversi, di essere matti. Nel 4 agosto 2009 un maestro, Francesco Giovanni, trovava la morte, ucciso dallo Stato in regime di ricovero coatto col famigerato TSO presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania in provincia di Salerno. È una vicenda molto dura, molto cattiva, molto violenta delle istituzioni contro una persona che probabilmente era vista dai responsabili di queste istituzioni come un diverso, come uno che aveva dei comportamenti non consoni, non omologhi all'ordine sociale. Ce la racconta questa la storia la compagna Leandra del Centro Cafiero. Ciao Leandra, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti, grazie per la telefonata, grazie per questa intervista. E niente. Pensando a questa giornata dedicata a Franco Mastro Giovanni, ma non solo a lui, cioè noi attraverso la storia di Franco, che è una storia molto complessa e molto intricata dal punto di vista della sua storia personale e dal punto di vista anche del processo, e poi insomma lo vedremo, cerchiamo di aprire un dibattito su politica e psichiatria. Questo diciamo è l'obiettivo della giornata. Diciamo, Franco è diventato il simbolo di una situazione ormai diffusa sul territorio di violenza inaudita nei confronti di persone che si fanno notare, quindi accumulano nel corso della loro vita un pregiudizio, che può essere un pregiudizio politico, può essere un pregiudizio sociale, e vengono quindi presi, salgono all'occhio del ciclone e quindi poi finiscono ricoverati nel TSO. Il caso di Franco è un caso emblematico, perché Franco aveva un passato politico molto forte, era stato coinvolto nel processo Marini, certo, del 72. Ricordiamo, Giovanni Marini è uno che venne incriminato per la morte di un fascista durante una colluttazione. Durante una rissa. Sì. Durante una rissa. E Giovanni Marini si ritrovò accusato di questo omicidio. E senza che ci fu nessun tipo di approfondimento dibattimentale, nessun tipo di prova a suo carico, senza che furono esaminate le prove, i testimoni non furono presi in considerazione. Perché? Perché Giovanni Marini era un noto anarchico di Salernitano, stava facendo delle inchieste molto approfondite sulla morte di 5 ragazzi che era avvenuta poco prima nella tenuta di Valerio Junio Borghese, nei pressi della tenuta di Valerio Junio Borghese, che avevano fatto a loro volta delle indagini sulla strage del Freccia del Sud. E questa cosa sì, l'abbiamo ricordata qualche sabato fa, sempre con i compagni. E io, scusate, non ho avuto modo di collegarmi prima. Va bene che la puoi anche ricordare. E Francesco Mastro Giovanni era stato coinvolto in questo processo in quanto era stato accoltellato nel corso di questa rissa. Allora, già c'è da dire che a me, insomma, rileggendomi tutti gli atti del processo, mi sembra incredibile che la vittima sia poi ritenuta colpevole e quindi sconti un anno di carcere. Cioè, Francesco Mastro Giovanni viene accoltellato e viene condannato a un anno di carcere, mentre invece quelli dall'altra parte, diciamo, i giovani del FUAN che erano lì presenti sempre all'omicidio, non furono minimamente puniti in qualche incriminati, esatto, in qualche modo. E Giovanni Marini sconta 14 anni, viene condannato a 14 anni, non gli viene data nessuna attenuante, neanche il fatto che lui non aveva precedenti, terrorista, che aveva la fedina penale pulita, che era lui uno studente, diversamente anche da quelli che erano presenti, diciamo, dall'altra parte del FUAN, che erano i famosi picchiatori. Non gli viene data nessuna, quindi non gli viene riconosciuto niente, e viene condannato e sconta 11 anni di carcere. A quel punto Franco si fa questa fama di essere noto anarchico, pericoloso anarchico, e lascia Salerno dopo un anno scontato in diverse carceri. Lascia Salerno e poi ci ritorna nel 99. Nel 99 gli fanno una multa, gli fanno una normalissima multa, E lui domanda a questi carabinieri che erano in piazza: perché mi avete fatto una multa? Ma una domanda credo che sia concessa a qualunque cittadino. Certo. E Franco, per questa domanda, perché mi avete fatto una multa, viene immediatamente portato in tribunale con una violenza inaudita, viene condannato a 2 anni e 7 mesi di reclusione, perché secondo questo tribunale lui aveva agito con violenza nei confronti dei carabinieri, quando poi ci sono 10 testimonianze a suo favore che lui è stato aggredito, pestato, portato in caserma, ridotto in condizioni assurde, tanto che poi in appello lui viene assolto completamente, e lo Stato viene condannato a pagare le spese processuali nonché un indennizzo per questa ingiusta detenzione che Franco sconta dal 99 al 2000. Ora io mi chiedo, in quale paese al mondo è possibile che lo stesso tribunale emetta una sentenza di condanna totale e poi una sentenza di appello totale nei confronti della stessa persona per lo stesso fatto? Mi chiedo, i 5 carabinieri hanno dichiarato il falso, che fine hanno fatto? Se sono ancora in servizio, se è concesso ancora di andare a dichiarare il falso nei vari tribunali? Cioè, io mi chiedo in quale paese sono, perché ho paura. Cioè, qua stiamo parlando di una multa, non stiamo parlando della grande manifestazione o del picchetto stiamo parlando di un piccolo paese in provincia di Salerno e dei carabinieri di zona. Era una persona non omologata all'ordine. Sì, esatto, dava fastidio evidentemente. Evidentemente qualcuno aveva notato il suo rientro a casa, perché lui è stato appunto dal 74-75 al 99 fuori, ha fatto quasi 15 anni in provincia di Bergamo e poi era rientrato a casa sua. Come credo sia diritto di tutte le persone civili, cioè come credo che sia diritto di chiunque scegliere dove vivere e come vivere. Era un maestro elementare, aveva una professione, è una persona normalissima, però evidentemente qualcuno aveva notato il suo rientro a casa e evidentemente dava fastidio. Da lì, dal momento in cui nel 2001 il tribunale lo assolve e lo scarcera e condanna lo Stato a pagare questa detenzione, scatta il primo TSO nel 2002. E questo TSO viene ordinato dal comune di Pollica, che è un comune che è un altro comune rispetto al comune di residenza di Franco ed è un altro comune ancora rispetto a dove Franco svolge la sua professione di maestro. Quindi questo TSO già nasce in abuso di ufficio, lo firma un vice sindaco, lo firma il sindaco di un altro comune. Sulla base di che cosa viene messo questo ordine di ricovero coatto non si sa. Da lì, dal 2002 al 2009, Franco comincia una lunga storia con questo reparto psichiatrico, finché arriviamo ad agosto del 2009, in cui io leggo, mi permetto di prendermi 5 minuti a meno, per leggere un brevissimo estratto di un articolo che è uscito all'epoca, il 13 agosto del 2009, che dice: la mattina del 31 luglio, decine di carabinieri e vigili urbani, alcuni in borghese, altri armati fino ai denti, hanno circondato la casa in cui alloggiava all'inizio di luglio per le vacanze estive, perché Franco era in vacanza. Era in vacanza, in ciabatte, al mare, in costume da bagno, il noto anarchico pericoloso omicida. Ecco. Oscuri i motivi della decisione, si dice per disturbo della quiete pubblica. Fonti interne alle forze dell'ordine raccontano, in maniera molto vaga, di un incidente in cui, guidando contromano, alcune sere prima avrebbe tamponato 4 autovetture parcheggiate, ma nessun agente né vigile ha mai contestato qualche infrazione e nessuno ha sporto denuncia verso l'assicurazione. Scappa dalla finestra Franco e inizia a correre terrorizzato per il villaggio turistico, finendo alla fine per gettarsi in acqua, perché non aveva, cioè non aveva nessun modo di scappare da là. Come se non bastassero, carabinieri e vigili urbani è intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera che dall'altoparlante avvertiva i bagnanti caccia all'uomo in corso. Per oltre 3 ore Franco resta sulla riva dell'acqua e le forze dell'ordine lo cercano di bloccare. Infine, sfinito, si fa prendere. Ora, io mi chiedo in quale paese normale si possono leggere articoli di giornale di questo tipo. Cioè, stiamo parlando di una persona che a cui vengono addebitati, sulla base di non si sa cosa, problemi psichiatrici. Quindi una debolezza, una certamente un'insicurezza, certamente delle reazioni di paura. Ebbene, questo sarebbe il modo per andare a prendere una persona da portare in ospedale? Caccia all'uomo? Con le motovedette, con i carabinieri? Mancava solo l'esercito. E non so che cos'altro poteva mancare lì. Cioè, è uno scandalo. Cioè, questa è una situazione cilena. E voglio ricordare che questo non è solo il caso di Franco, perché la famiglia di un ragazzo morto a Trieste mi ha fatto sapere, con le carte che mi ha inviato, che suo figlio e il figlio di questa famiglia che adesso è in causa è morto per l'arresto. Cioè, il ragazzo si è talmente spaventato nel corso dell'arresto che i poliziotti hanno esercitato nei suoi confronti che è morto di arresto cardiaco all'istante. Poteva capitare anche a Franco, perché Franco era in ciabatte, era in costume da bagno in un villaggio turistico, stava facendo le sue vacanze e gli è addosso una scarica di violenza che io credo che non debba essere consentita in nessun paese che si ritiene civile. Quindi sono tantissime cose, diciamo, gli aspetti minori e correlati alla storia di Franco, per la qualcosa noi abbiamo deciso di dedicare questa giornata a lui, perché in realtà parliamo non solo di lui, ma attraverso tutta quella che è la sua esperienza, quindi dal 72 arriviamo appunto al 2009 e poi andremo dentro il reparto psichiatrico e lì poi possiamo aprire fiumi di parole su lager e comunque il controllo psichiatrico si sta diffondendo, i TSO sì. Si moltiplicano, le statistiche ci dicono sì. Che i TSO si stanno diffondendo, quindi in realtà stanno riaprendo i manicomi, voglio dire, detto brutalmente, sì. Perché TSO in realtà è quello poi, ma anche nelle carceri so che stanno aprendo dei repartini, in alcune penitenziarie aprono dei repartini per controllo psichiatrico, quindi la situazione è molto degenerata negli ultimi anni. Assolutamente, perché in realtà la situazione attuale, così diciamo la legge attuale, consente un controllo ad personam che ha buon gioco nei piccoli paesi soprattutto, perché stiamo parlando comunque di paesini molto piccoli, e lì il controllo è molto facile, perché la legge consente di avere 2 certificazioni mediche. Queste 2 certificazioni mediche non devono essere di uno specialista, non devono essere del medico di base, non devono essere convalidate, diciamo, dal giudice. Il giudice interviene solo alla fine di questo percorso in cui vede se il certificato è a norma o meno, ma non è che prende parte a tutela dei diritti delle persone che vengono di fatto private di ogni libertà. E alla fine, quindi, poi acquisite queste 2 certificazioni mediche, scatta l'ordinanza del sindaco. Tutta la responsabilità quindi è nelle mani di un sindaco. Non c'è un collegio medico, non c'è un collegio sanitario, e anche all'ingresso dell'ospedale, cioè la persona quando viene rapita in questo modo così brutale che abbiamo visto, quando viene poi portata in ospedale, non ha all'ingresso della struttura un collegio giudicante o un giudice o un magistrato che sta lì e verifica le condizioni, viene preso e buttato lì dentro. Certo. Questo, giacché la responsabilità è solo del sindaco, quindi di un eletto, una persona che se dice bene resta in carica 4 anni, altrimenti, voglio dire, anche dopo 2 anni può cadere, no? È una responsabilità politica, cioè una scelta politica a indicare le persone che finiscono in questi gironi infernali da cui non se ne viene più fuori, in cui la persona non ha nessun tipo di tutela. Sì. Nessuno può intervenire e impugnare le certificazioni mediche e dire no, io non sono d'accordo. Perché in un paese civile che dovrebbe consentire il contraddittorio su ogni cosa, io la ritengo una risoluzione cilena. Sì. Mi ha scritto l'Associazione dei Medici contro la Tortura di Roma, mm-hmm. segnalandomi che il sindaco Alemanno ha avuto un incontro con Maroni lo scorso 16 settembre. Nel corso di questo incontro con Maroni, il sindaco Alemanno ha richiesto maggiori norme in materia di sicurezza municipale, includendo nella sicurezza municipale anche clochard, prostitute, persone che non possono garantire una residenza stabile o non possono dimostrare di avere un reddito stabile, che sì. significa allargare il campo dell'eventuale TSO letteralmente a chiunque. Certo. E il sindaco Alemanno sempre ha chiesto al ministro Maroni di ampliare il periodo di soggiorno di queste persone da 14 giorni attuali, che sono già un bel po', perché sono 14 giorni senza alcuna tutela, a 6 mesi senza alcuna tutela. Mm-hmm. Quindi l'Associazione dei Medici contro la Tortura ha mandato una lettera al sindaco Alemanno, a cui io in via del tutto personale sottoscrivo completamente, facendogli notare che queste nuove categorie che sono inserite nel TSO hanno aspetti socio-economici che allargano la fetta degli interventi, non soltanto quindi gli interventi di natura psichiatrica, ma ci allarghiamo a oltre 7.000 persone. 7.000 persone, certo. Perché intervengono fattori socio-economici, certo, di altro, certo, tipo, infatti, che non hanno nulla a che vedere con l'aspetto sanitario, no, vero e proprio. Infatti, si mischiano l'aspetto sociale e quello patologico, sì. Si cercano di inficiando l'uno e l'altro in realtà. Sì, io devo dire che per me, ecco, il caso di Franco che presentiamo, certo, oggi è un caso, come dicevo, emblematico, cioè la punta dell'iceberg di una situazione è ormai allarmante, sì, che tocca tantissime persone. In Italia abbiamo quasi 600.000 persone tra ricoverati, manicomi giudiziari, carceri, diciamo reparti psichiatrici, ex legge Basaglia, strutture di assistenza, eccetera. Sì. Quasi 600.000 persone che negli ultimi due anni hanno ricevuto un'ordinanza del TSO, sì, perché in un piccolo paese di provincia, all'atere dai circuiti, lontano dalle telecamere, lontano da quelli che sono comunque gli aspetti nazionali di una capitale, per esempio, è molto facile fare, sì, questo tipo di controllo ad personam, e quindi prendere il pianista di Trieste, prendere l'esperto informatico di Treviso, prendere l'anarchico di Vallo della Lucania, metterli, buttarli lì e farli morire, perché, certo, poi sono morti tutti. Questa è la realtà, questa, certo, cura nessuno ha mai discusso in termini scientifici reali sugli effetti terapeutici reali di un trattamento sanitario di quel tipo, che prevede comunque l'annullamento della volontà di una persona e soprattutto un intervento farmacologico che lascia basiti. Io ho avuto modo di incontrare i compagni di stanza di Franco, mm-hmm, presso il Tribunale di Vallo lo scorso 28 giugno, che io ringrazio a nome della famiglia, a nome del Comitato Verità e Giustizia, perché queste persone ridotte al punto di non essere in grado neanche di proferire una parola, tanta di quella roba gli hanno dato, sono venuti a testimoniare in tribunale che sì, vicino al letto di Franco non si è avvicinato mai nessuno. Perché? Perché c'è un palese pregiudizio nei confronti di Franco, che sta lì ricoverato, che sì, che quel reparto era un lager, che venivano trattati malissimo, e sono venuti quasi tutti, quasi 14 ricoverati sono venuti lì al tribunale. E io questa gente ritengo che non abbia bisogno di nessun tipo di ricovero 4, personalmente. Bene, Leandra, ti ringraziamo per questa panoramica che ci hai fatto. Non so se vuoi aggiungere qualcosa ancora. No, grazie a voi. Io vi aspetto oggi pomeriggio. Perché è tanta la carne al fuoco. Certo. La storia appunto è complicata. Cercheremo di spiegarla al meglio, perché poi mi rendo conto che è molto difficile per chi non è della zona come me, che sono di Salerno e quindi conosco bene, conoscevo Giovanni. E che comunque voglio ricordare, perché anche Giovanni Marini ha avuto un elettroshock mentre era ricoverato, mentre era ancora in attesa di giudizio, solo perché era un anarchico. Sì.